Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Romanzi in valigia. Avete già deciso quali libri portare con voi in vacanza quest'anno? Beh, insomma, se avete un e-reader potete portarvene veramente un'infinità. Se invece preferite leggere quelli cartacei, e io devo dire la verità, sono anche fra questi, e bisogna fare insomma una scelta accurata, altrimenti si rischia, come dire, di superare il carico del bagaglio consentito. E allora un po' di consigli sui libri che si possono leggere quest'estate. Allora, se avete voglia di commuovervi, se avete voglia di leggere un romanzo intimista, ma nello stesso tempo doloroso e tenero, e allora vi consiglio Il Nero e l'Argento, scritto da Paolo Giordano, pubblicato da Einaudi. Paolo Giordano, insomma, lo conosciamo tutti, opera prima La solitudine dei numeri primi, che è stato un bestseller assoluto in Italia. Poi aveva pubblicato Il corpo umano e quest'anno, cambiando casa editrice, andando da Mondadori ad Einaudi, ha pubblicato questo Il Nero e l'Argento, che è una sorta di racconto lungo o romanzo breve. Lui preferisce, poi lo sentirete nell'intervista, chiamarlo novella. Per la prima volta Giordano fa una narrazione in prima persona, quindi un romanzo veramente intimista, tra l'altro in parte autobiografico. Protagonista è una coppia, lui è ricercatore di fisica, c'è poi la moglie Nora, un bambino, e c'è questa signora A, così viene definita in tutto il libro, che è la tata di questo bambino, ma in realtà è la persona che si prende cura un po' di tutta questa famiglia ed è la persona che determina gli equilibri psicologici di questa coppia e di questa famiglia. Ma come mai Paolo Giordano ha deciso di, come dire, di scegliere questo soggetto, cioè una donna estranea ad una famiglia che però ha un peso così determinante nella stessa famiglia? Sentiamolo. Ma in realtà il libro, come dire, ha avuto due fasi grosse nella lavorazione. In tutta la prima stesura, questa era veramente, nella mia idea, una novella, quindi oggi, diciamo, lo chiamo romanzo perché tutti tendono un po' a semplificare, in realtà questa è un po' una novella. E doveva essere veramente il racconto di una vita semplice, un po' ispirata a quel racconto di Flaubert su Félicité. E avevo, come dire, come modello questa persona che era stata veramente a contatto con me dentro la mia casa per alcuni anni e che a un certo punto si era ammalata ed era venuta meno. A un certo punto però mi sono reso conto che, come spesso accade, quello che era veramente interessante della storia non era quello che avevo in testa io, ma qualcosa che è emerso poi scrivendo, e che forse non era la vita vera di questa persona, che era estremamente semplice in realtà, era veramente una vita quasi da manuale, era una vedova, non aveva figli, viveva da sola, faceva l'orto e cucinava, in fondo non c'era molto da dire. Ciò che era più intrigante era il modo in cui questa persona riusciva a fare da specchio a questi due ragazzi giovani con questo bambino e a come riusciva con delle certezze anche molto convenzionali, anche a volte insensate, e delle piccole cure a renderli più sicuri in questa sorta di giungla che è il giorno dopo giorno. C'è molto il concetto di cura in questo romanzo, perché, come dicevamo, la signora si prende cura teoricamente del bambino, ma in realtà proprio abbraccia, accompagna emotivamente questi due giovani proprio nella costruzione della loro famiglia. Nel momento in cui infatti si ammala di cancro, vanno un po' fuori di testa. Lui per esempio inizia a soffrire all'improvviso di insonnia, lei fa fatica a trovare il suo equilibrio, anche il bambino sente un senso di distacco. Che cosa succede quindi nella loro mente quando questa donna, appunto perché è malata, non può più prendersi cura di loro? Beh, secondo me diventano, quello è veramente il passaggio in cui diventano una famiglia, nel senso che in fondo questa signora ha, che entrava in casa ogni mattina e si occupava appunto prima della casa, poi del bambino, poi delle piccole cose, era un surrogato di genitore per loro, una sorta di genitore condiviso. E io credo che in fondo di genitori surrogati ne abbiamo bisogno e voglia a tutte le età, insomma, appena troviamo qualcuno che ha una cura, una cautela particolare verso di noi, ci attacchiamo ancora come se fossimo dei bambini. E nel momento in cui lei si allontana, la famiglia si trova veramente da sola. E scrivere questo libro mi ha fatto un po' pensare a come esiste una solitudine che non è una solitudine dei singoli individui, ma è una solitudine davvero anche delle famiglie, dei piccoli nuclei. Che si sente molto la solitudine proprio degli adulti qui, più che del bambino, di altre situazioni. Cioè, questi adulti si sentono soli. C'è una scena in cui lui dorme, accarezza un po' il fianco della moglie, vorrebbe quasi che lei si svegliasse e dice: in quel momento penso alla signora e mi sento profondamente solo. Sì, perché non so, siamo abituati un po', specialmente nella narrativa, no? a immaginare il coronamento dell'amore come la fine della solitudine, la fine come l'appagamento reale. E in parte lo è. Questi due ragazzi del libro, ad esempio, sono una coppia felice, una coppia innamorata, quantomeno. Eppure, secondo me, si scopre poi nella routine, appunto, una forma di solitudine che è un po' diversa, che riguarda la coppia insieme, riguarda specialmente quando c'è un bambino che cresce e, come dire, porta le sue proprie difficoltà rispetto al mondo. Ecco, secondo me questo può portare a degli attimi di forte scoramento anche nelle coppie. E avere anche solo una persona che non ti dà necessariamente una chiave di lettura profonda o intelligente o risolutiva, ma anche solo che ti dà quel coraggio banale, che quella mano sulla spalla, ecco, secondo me è una mancanza che sentono moltissime famiglie, moltissime coppie, moltissimi ragazzi che cominciano, perché alla fine la quotidianità è complicatissima. Tornata nelle tue parole, la parola solitudine, naturalmente tutti ci ricordiamo il tuo esordio, il grandissimo bestseller La solitudine dei numeri primi. La solitudine come situazione dell'animo umano è tornata anche nel corpo umano, perché insomma questi militari in Afghanistan erano fondamentalmente soli. Come mai, ecco, tu nei libri torni spesso su questo tema della solitudine, lo affronti da naturalmente punti di vista diversi, però insomma è un tema ricorrente? Ma in realtà, devo essere sincero, non sono mai riuscito a spiegarmelo completamente, perché non è mai un punto di partenza per me, è qualcosa che a un certo punto emerge mentre sto scrivendo. È stato così in tutti e tre i romanzi, non sono mai partito con l'idea che la solitudine fosse uno dei cardini di quello che avevo in mente. Penso sia un po' connesso proprio all'atto stesso dello scrivere, del leggere, che mi rimanda non tanto all'adesso, in cui anche la lettura e la scrittura sono in fondo più condivisi, no? Perché ciò che scrivo viene letto, di ciò che leggo ho persone con cui parlarne, però proprio a uno stadio forse embrionale di quando è nato tutto, in cui invece soprattutto la lettura era un atto per me molto di racchiudimento. Ecco, leggendo questo libro io ho sentito proprio la necessità del raccoglimento, cioè di immergerti completamente in una storia. Ecco, questo secondo me è un romanzo che va letto in solitudine, insomma si legge in solitudine, ma anche con probabilmente un silenzio intorno, perché fa eco a quello che si legge. C'è un'altra scena anche molto bella, quando Nora, diciamo, fa riferimento ai capelli della signora A e dice che ce li ha di un bianco particolare, di un argento, e lei vorrebbe averli così. E allora il suo compagno dice: in realtà in quel vorrei averli così esprime un senso di appartenenza. Cioè, a volte le persone estranee che si prendono cura diventano forse più importanti anche dei legami di sangue. Sì, penso che invece questo sia stato un punto di partenza per la storia, cioè mi sono accorto quando è mancata questa persona reale sulla quale la signora A è modellata. Questa signora, come dire, per noi in fondo era un aiuto domestico, era una signora che noi pagavamo per aiutarci, però nel tempo era diventata molto più di questo, chiaramente. Eppure mi sono accorto come nel momento in cui arriva la morte o anche solo la malattia, qualcosa di, diciamo, di più grande, ineluttabile, tutto ciò che è un affetto, in un certo senso non legittimo, viene spazzato via in un colpo. E di questi legami affettivi che non hanno basi di sangue o di altro tipo non resta più niente. Questo è molto triste, perché in realtà esistono veramente legami più profondi e duraturi e più emotivamente più solidi di quelli di sangue spesso. Eppure la morte poi li mette al fondo della scala, e questo l'ho trovato molto triste, e forse è stato proprio il motivo, la motivazione attiva per cui ho voluto scrivere questo libro, per rinsaldare questo legame che sennò sapevo si sarebbe disperso. Infatti, quando all'inizio dicevo è un soggetto originale per un romanzo, perché sì, ci sono, non so, la cameriera, la portinaia, penso l'eleganza del riccio, ad altri romanzi, però raccontati dall'occhio di chi, come dire, è accudito, e all'improvviso si rende conto che di quella persona in realtà non sa quasi nulla e ne vorrebbe sapere di più. Tu l'hai dichiarato molto chiaramente, è un libro autobiografico, più che altro questa signora è esistita veramente, tra l'altro il protagonista maschile è un ricercatore di fisica, quindi insomma non sei andato molto lontano dal tuo orto. Che sensazione ti dà l'aver scritto così tanto di te? Nel senso che gli scrittori scrivono sempre di sé nei romanzi, però tu con La solitudine dei numeri primi avevi detto no, non c'è niente di autobiografico, il corpo umano è stata un'esperienza che tu hai avuto in Afghanistan, però non eri tu. Qui invece ti stai dichiarando proprio esplicitamente, no? E ti stai mettendo molto a nudo. Questo sono io, almeno al 50%. Sì, è vero, è un romanzo molto nudo in quel senso, e la sensazione di mettermi a nudo in realtà non mi piace affatto, e penso fosse un passaggio un po' necessario, nel senso che con il corpo umano io in un certo senso ero andato fortemente verso quella direzione, e quindi sapevo che dovevo fare ancora un passo avanti per capire esattamente cos'era. In generale penso che sia la cosa più pesante per me da sopportare di questo mestiere. È un mestiere bellissimo, faticoso, però come dire, sempre vario, ma la cosa in assoluto più difficile per me è gestire la verità e le ricadute sul reale delle cose che scrivo. Questo è una cosa con cui non riesco a fare pace, che in realtà mi tormenta continuamente. E questo era Paolo Giordano, ora in libreria con Il Nero e l'Argento, pubblicato da Einaudi. Il cacciatore di libri. Romanzi in valigia. Il titolo e la copertina di questo libro, secondo me, sono veramente fantastici. Allora, il titolo è Arredo casa e poi mi impicco. Credo che sia una cosa che tutti noi abbiamo pensato nel momento in cui dovevamo arredare una casa. Lo scrittore Massimiliano Virgilio ha pubblicato da Rizzoli. La copertina. In copertina, beh, insomma, potete naturalmente guardarla su Google o anche su radio24.it nella sezione del cacciatore di libri, perché c'è, diciamo, la rappresentazione grafica di un armadio, un divano, un tavolino, una libreria, con i prezzi attaccati. Insomma, come se fosse la vetrina di uno dei tanti negozi dell'IKEA. È un romanzo ironico, lo si capisce anche dal titolo, Arredo casa e poi mi impicco, ma attenzione, non è un romanzo leggero, perché c'è una profondissima amarezza sullo sfondo di questo romanzo, e poi c'è un finale, insomma, bello tosto. È ambientato a Napoli, il protagonista è un trentenne che si trova a dover un po' tirare le somme, fare un bilancio della sua vita. E fra queste cose c'è appunto anche l'idea di dover comprare e arredare una casa. E allora sentiamo come parla di questo personaggio, di questo protagonista, l'autore Massimiliano Virgilio. Michele è un trentenne con due successi insuccessi editoriali alle spalle, si appresta a scriverne probabilmente un terzo e affronta l'acquisto della casa, l'abitare una casa, come una forma di rito di passaggio verso l'età adulta, che innanzitutto arriva già tardi, perché arriva a 30 anni, l'età adulta comincia ben prima. E nel momento in cui si ritrova in questa casa ha come la sensazione che il lucchetto, o meglio la serratura alle sue spalle, si stia chiudendo, come nei peggior film horror. Però capisce una cosa, che la casa in cui è entrato è la sua, non è la casa dell'ospite o del nemico. E da qui inizia questa idea della casa come trappola, la casa come ossessione italiana, perché se c'è una questione di cui spesso, anzi tantissimo, si parla nel nostro paese, è di quanto gli italiani siano popolo di proprietari di immobile. Infatti sembra quasi che il protagonista di questo romanzo acquisti la casa spinto più che altro dall'idea culturale dei genitori, che dicono, beh, insomma, con una casa di tua proprietà sei più sereno. È la proiezione, Michele, è la proiezione del sistema culturale all'interno del quale è nato, della società all'interno della quale è nata, che ha deciso per lui di farlo diventare un proprietario di immobile, di proprietario di casa. E benché lui sia uno scrittore o un aspirante tale, benché lui sia, come dire, si direbbe a Napoli una capa fresca, cioè uno che insomma, ha aspirazioni che vanno ben al di là della minestra da mettere a tavola, in realtà si ritrova esattamente in questo gorgolo, in questo conflitto, e deve vivere nel quartiere dove ha sempre vissuto, che nel mio caso è Capodichino a Napoli, quindi un quartiere nei pressi dell'aeroporto, un quartiere rumoroso, un quartiere souk per certi versi, e da qui inizia la sua storia, la storia di una trappola. Ma la casa è anche come costruzione dell'identità personale. In realtà c'è un aspetto, diciamo così, positivo della vita di Michele all'interno di questa casa. È lì dentro che Michele costruisce la sua identità personale, le sue abitudini, i suoi costumi. È lì dentro che scoprirà l'amore, forse per la prima volta, e anche la felicità che può conseguire dalla scoperta dell'amore. A un certo punto tu nel romanzo scrivi che questa casa, che il protagonista Michele definisce sempre antro, quindi qualcosa di quasi una grotta, qualcosa di buio, insomma, di non piacevole con questa definizione, più la arreda, più ci mette mobili e più lui si sente solo e sente che questa casa è vuota. Come mai questo paradosso? Beh, questo è un paradosso che credo chiunque abbia vissuto in solitudine l'arredamento di una casa si trova ad affrontare a un certo punto, e cioè quando è che finisce? Quando è che arredare una casa ha un termine oggettivo? Non ce l'ha. E quindi la sensazione di Michele è esattamente quella. Da grande filosofo della Magna Grecia, come lui si autodefinisce, si trova ad arredare casa, ad aggiungere sempre un ulteriore suppellettile, un ulteriore mobile, ma ad avvertire sempre una crescente sensazione di solitudine. Addirittura lui crede di sentire una eco che aumenta. La eco dovrebbe diminuire con la presenza di mobili nella casa, invece nel suo caso questo non avviene, perché lui si trova a vivere e ad essere apertamente solo in ogni suo aspetto, in ogni parte della sua giornata. C'è molta la solitudine del protagonista del romanzo. Si dice anche che lui aveva iniziato ad avere un rapporto forte con i libri, con la narrativa, proprio per questa sua solitudine. Insomma, c'è un rapporto di causa-effetto fra solitudine e lettura e scrittura di libri. Ci sono anche dei personaggi di grandi romanzi, insomma, che tu citi in questo libro. Qual è il tuo rapporto con i libri? Beh, esattamente un po' il rapporto di Michele. Sono cresciuto in un contesto dove a volte più delle persone hanno contato i libri. Molto spesso nella mia vita personale i libri sono stati più importanti delle persone, delle amicizie di chi ho avuto davanti. Poi questo a un certo punto si è ribaltato, voglio dire. Ho scoperto, ribaltando esattamente questo concetto, che i libri sono meno importanti delle persone, e fondamentalmente in questo, diciamo, passaggio, questo andirivieni tra una solitudine anche ricercata, se vogliamo, anche una solitudine non soltanto imposta, e il tentativo di avvicinarsi agli altri, di scoprire l'amore, di scoprire il lavoro, di avere una stabilità, qualcosa di rassicurante, si gioca poi tutta la partita di Michele, che è una partita, se vogliamo, anche un po' da maschio meridionale, che soffre di alcuni tic anche abbastanza, come dire, consapevoli, e quindi si ritrova ad amare una donna allo stesso tempo a non sopportarne la sua libertà, la sua pretesa di emancipazione, o comunque di essere semplicemente una donna esattamente come lui è un uomo. Non stiamo facendo una bella pubblicità ai libri dicendo quasi che uno appassionato di libri diventa necessariamente eremita, però insomma, al di là di questo gioco, di questo scherzo, ci sono tutta una serie di personaggi che ruotano intorno a Michele. Ai genitori abbiamo già, insomma, minimamente accennato, appunto, hanno un'idea molto tradizionale della vita. E poi ci sono due personaggi femminili meravigliosi, insomma, la sua fidanzata, la ballerina Clio, e la famosa Miss Vrenzola, che vorrei che tu definissi almeno con qualche parola. Allora, Vrenzola è una parola che in napoletano, in maniera, diciamo, nell'accezione originaria di questo termine, Vrenzola significa cencio, panno di stoffa, qualcosa che ha poco valore. Per estensione nel tempo, Vrenzola è passata a definire la donna, la ragazza, soprattutto, che un tempo si sarebbe detto del sottoproletariato urbano, quindi una ragazza che si veste in maniera abbastanza vistosa, che certamente non ha un buon eloquio, che non ha studiato e che molto spesso, come nel caso della Miss Brenzola, che è personaggio di questo libro, ha avuto un figlio in età molto giovane, e si è sposata con un uomo che spesso è un maschilista, spesso nel contesto napoletano è anche uno che è stato in carcere oppure che ha avuto sicuramente non molte possibilità, diciamo così, dalla vita. E Miss Brenzola però in questo romanzo diventa la chiave di volta dell'incontro tra Michele e il mondo. L'apertura e anche l'inizio dell'attrito tra Michele e il mondo passa attraverso questa donna delle pulizie, questa ragazza che fa le pulizie, che Michele, da intellettuale snob, in certo senso arruola, no? Nella sua casa antro. Però ci si confronta anche spesso dal punto di vista quasi filosofico. Sì, perché Miss Brenzola in realtà, come molte Brenzole napoletane, è una vera filosofa, è portatrice di una sua etica, di un ethos, che è scolpito sulla sua pelle, è scolpito sul suo corpo, nella bellezza primitiva, spesso un po' corrotta, diciamo così, che queste ragazze, del sud in certo modo, interpretano. E Michele però sì, ha una grande necessità di confronto con questa persona che gli entra nella casa, quindi entra nell'antro, ed è costretto in un certo senso a confrontarsi con la filosofia, se vogliamo un po' spicciola, ma anche molto interessante, molto originale di Miss Brenzola, che tutto sommato gli fornisce un punto di vista diverso sul mondo. E quindi Miss Brenzola sarà, come dire, il gancio e l'anello tra lui e la ballerina. Perché? Semplicemente perché è la donna delle pulizie di entrambi. La ballerina è quella che poi diventerà la sua fidanzata. Sì, Clio, ed è a sua volta un'altra donna, una donna molto diversa da Miss Brenzola, è probabilmente un intellettuale, nel senso che appunto fa l'arte per l'arte, pratica la danza a vuoto, allo stesso tempo è costretta esattamente come Michele a sbarcare il lunario con piccoli lavoretti, e incontrerà Michele su questo terreno di guerra che è la casa, si incontreranno nella casa di Clio, la ballerina, e questo perché c'è un problema a monte, cioè bisogna decidere chi potrà usufruire dei servizi di Miss Brenzola il mercoledì, e questa questione diventa l'incidente scontro che farà incontrare Michele e Clio. Detto così, sembra appunto apparentemente un libro leggero che parla dei trentenni un po' precari. In realtà, come dicevo prima, c'è molto, molto di più in questo romanzo. Anche dal punto di vista stilistico, si parte con l'ironia e poi si arriva al vero e proprio dramma. Insomma, adesso non scendiamo nei particolari, ma io ho trovato appunto un finale assolutamente che ci sta, insomma, non è così messo giusto per creare sensazionalismo, ma è un finale che spiazza, è un finale che lascia un po' così, ma non possiamo dirvi niente, bisogna leggerlo questo libro, Arredo casa e poi mi impicco, pubblicato da Rizzoli, lo ricordiamo. C'è un'altra cosa che mi ha colpito in questo romanzo. Si racconta la vita dei trentenni, la vita dei trentenni del sud di Napoli, molti dei quali in realtà sono emigrati, sono andati al nord. Il migliore amico di Michele, insomma, ha un'offerta di lavoro a Torino. E c'è una parte dove tu dici, tutti vanno via, poi quando tornano a Napoli si commuovono a vedere, la neve sul Vesuvio, però in realtà appena mettono piede nella stazione non vedono l'ora di andare via. C'è questo rapporto, e lo dico da ragazza del sud emigrata al nord, eternamente conflittuale fra il tornare e l'essere andati via. Tutte le cose da cui sfuggiamo, in certo senso ci richiamano, e nel momento in cui ci richiamano, sentiamo e riconosciamo subito i motivi per cui siamo scappati via. Questa stessa sensazione Michele la prova in prima persona anche quando va a trovare la madre. Ha sempre la sensazione di dover fare qualcosa in più per sua madre, di doverle portare un dono, di doverle dire una parola, di voler passare un po' di tempo con lei. Ma appena sua madre apre bocca, Michele ha voglia di scappare via. E questa sensazione, diciamo, un po' dolente, un po' nostalgica di qualcosa che forse non è mai avvenuto, è anche un po' la cifra dell'intera storia. E quindi anche gli amici che sono andati via, anche parliamo di dati drammatici al sud, parliamo di 2 milioni di persone in 10 anni quasi, insomma, forse mi sbaglio di poco, ma comunque queste sono le cifre. Ovviamente parliamo quindi di un fenomeno sociale importante. tutti noi, voglio dire, che viviamo al sud, sappiamo cosa significa perdere la quotidianità degli amici. Forse la stessa sensazione si prova sì anche da altre parti del paese, ovviamente, ma questo perché c'è un meccanismo di mobilità sociale che permette tutti di muoversi, di andare avanti in un modo o nell'altro. Al sud invece ha sempre i connotati della tragedia, dell'abbandono, del taglio netto. E quindi certamente è il clima che dà, come dire, ispirazione poi a tutta la vicenda di Michele. E questo era Massimiliano Virgilio, ora in libreria con Arredo Casa e poi Mi Impicco, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordo che ogni sabato alle 14 c'è quindi l'appuntamento con Il Cacciatore di Libri versione romanzi in valigia, ma Il Cacciatore di Libri continua con le sue puntate normali, definiamole così, il sabato alle 22 e in replica la domenica alle 15. Grazie in regia Roberto Scaltritti, una buona lettura da Alessandra Tedesco.